vado e tu, e tu vieni a riprendermi. Sapessi cos'è un'anima, saprei che cosa venderti. Cado e tu, tu mi porti ancor più giù. Sei specchio dei miei limiti, dei miei talenti inutili. Ogni volta poi sai sorprendermi. Se ogni cosa è intorno e poi non ci sei più, non ci sei, io non lo so. Come fai a sbattermi così che certi giorni ho il cuore nero e sembra sempre lunedì? E la notte ha mille sguardi che si nutrono di me. Poi la luce li cancella ed io ritorno a credere sia possibile ogni cosa, questa sana follia. Sia capace di mostrarmi, mi basta, mi porti via da qui, dall'assurda e inutile. Cado e tu mi porti ancor più giù, e in questi abissi gelidi respiro sogni liquidi. Ma ogni volta poi sai sorprendermi, quando penso di toccare il fondo, mi riporti su, mi riporti su, mi riporti su. Io non lo so come fai a sbattermi così che certi giorni ho il cuore nero e sembra sempre lunedì, e la notte ha mille sguardi che si nutrono di me. Poi la luce li cancella ed io